governo del Sudan e il maggior movimento ribelle meridionale, lo SPLA, hanno firmato mercoledì a tarda sera nella città keniana di Naivasha tre protocolli d'intesa che spianano la strada alla pace definitiva tra Nord e Sud Sudan, dopo una guerra civile durata 21 anni. Un risultato storico, visto che i problemi risolti con la firma di mercoledì, ovvero la divisione del potere e lo status di tre aree contese al confine tra Nord e Sud, erano rimasti gli ultimi grandi ostacoli da superare dopo gli accordi raggiunti nei mesi scorsi sulla spartizione dei proventi del petrolio e il futuro delle truppe ribelli. La notizia dell'accordo è stata accolta con grande gioia e sollievo in tutto il paese, anche se in realtà non tutto è compiuto, visto che resta ancora del lavoro da fare per arrivare al trattato di pace definitivo. A Khartoum, settentrionali e meridionali si sono trovati assieme a festeggiare, portando per la prima volta nelle strade della capitale anche la bandiera dell'SPLA. Anche le reazioni internazionali sono state molto positive. Tutti però, dal governo degli Stati Uniti a quelli dei paesi europei, dai think tank internazionali alle agenzie dell'ONU, hanno sottolineato la necessità e l'urgenza di dare soluzione all'altra guerra del Sudan, quella che da 15 mesi contrappone il governo centrale ai ribelli del Darfur, nell'ovest del paese. Una situazione molto seria, definita dall'ONU la più grave crisi umanitaria in corso e per la quale il governo di Khartoum è accusato di crimini contro l'umanità. Tutti si augurano ora che il vento di pace che arriva da sud possa giungere presto anche a ovest. Irene Panozzo, Lettera 22, Amisnet.